Ma insomma, noi valuteremo nel merito le risposte che il governo saprà dare ai problemi degli italiani, a partire da quelli della sicurezza, della crisi economica, sulle vere sfide che sono aperte in Italia. Per ora possiamo dire che è deludente la compagine che viene riproposta, numerosa, 21 ministri, di personalità dei partiti della maggioranza che abbiamo a lungo sperimentato nei precedenti governi Berlusconi.